sono Alberto Di Palma, abito a Montevecchia in provincia di Lecco, ho 40 anni, sono separato con... Sono Margherita, ho 23 anni, vengo dalla provincia di Como, ma... Sono Lucia Fracassi, abito a Parma. Io sono Giuseppe Moretti, abito a Pesaro, per sbaglio, perché poi in effetti sono Luca Munaretto, ho 30 anni, sono nato, cresciuto e stabilito a Milano, lavoro come web collaboro con l'università e adoro una grande società. Mi chiamo Nicola Vignalunderi, ho 30 anni. Mi chiamo Matilde Carissimi, ho 13 anni. Vengo da Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Sono Edmondo Colella, vivo in provincia di Caserta, ma lavoro a Cassino. Sono Livio Sandre, abito a Gorgonzola, in provincia di Milano. Io sono Rosario Tedesco, ho 38 anni, sono nato a Palermo, sono un attore. Sono Maurizio Giordani, vivo a Roma, ho una compagna. Mi chiamo Enrico Solmi, sono nato a Modena nel 64, vivo... Ho 37 anni. Mi chiamo Laura Sponsilli. Mi chiamo Francesca Maria Rani, 52 anni, provincia di Stefano Bertolucci, sono Eliano Bonacchi, Siete qui, è la scritta che si trova in calce alle mappe di luoghi complessi, le cartine delle metropolitane, le piante degli alberghi e dei musei. Di solito è un puntino rosso che ti dice dove ti trovi esattamente e come muoverti da lì. Io ho sempre immaginato questo programma come una mappa e ognuno dei racconti come una minuscola presa di coscienza, un modo per osservare la propria vita da fuori, anche solo per 5 minuti. O per una sera. Il tempo di ascoltare delle storie e di districarsi in quella mappa. Buonasera, benvenuti. E grazie per essere qui. Credo di averlo detto tra le 100 e le 150.000 volte, questa sera siamo in live streaming che neanche la regina Elisabetta durante il giubileo, quindi ci stanno guardando da casa, credo queste 50-60 persone probabilmente, quindi siete molti di più voi questa sera qui. Io questa sera devo partire subito male. Io questa sera devo partire facendo un errore, e vi spiego che errore devo fare. Io ho bisogno di... non durerà tanto, durerà un'ora e mezza a dir tanto. So che avevo detto un'ora e dieci, però siamo arrivati a un'ora e mezza, ma a dir tanto un'ora e mezza. L'errore che devo fare è questa sera chiedervi attenzione, che è un errore che chiunque si occupi di comunicazione o di intrattenimento... è la prima cosa che ti dice di non fare. Ti dicono, tu non puoi chiedere uno sforzo a chi ti ascolta, o a chi ti guarda, o a chi ti legge, perché loro devono essere liberi di arrivare e mettersi ad ascoltare quello che stai dicendo, o guardare quello che stai facendo. Ecco, invece questa sera non va così. Io questa sera ho proprio bisogno che voi facciate uno sforzo, e vi spiego il perché. Perché questa sera sentirete 10 racconti, che sono 10 storie, che avete scelto voi. Se avete votato, li avete scelti anche voi. Se non li avete votato, fatti i vostri, vi beccate quello che arriva, che hanno votato altri. E sono i 10 racconti più votati, più selezionati dagli ascoltatori. E sono 10 storie. È molto più facile seguire un'unica storia, ovviamente, no? Che ha un unico personaggio, che ha una sua storia, tu la segui, magari te ne perdi un pezzo, se è un libro torni indietro, se è un programma radiofonico ti ascolti podcast, è un film, semplicemente parti da lì. È più complicato invece seguire 10 storie. Questo peraltro è il motivo per cui i libri di racconti non vendono niente, i cortometraggi non vengono guardati, per cui i film sono o lungometraggio e i libri sono per lo più anzi. Ecco, questa sera invece noi proprio facciamo un'altra cosa. Raccontiamo 10 storie, vi chiedo quindi di fare questo piccolo sforzo, perché e ci sono delle persone qui stasera che sono tra quelli che hanno scritto le 10 storie, oltre a tutti quelli che hanno scritto e che non sono stati selezionati, ma non è colpa mia, non sono stato io a sceglierli. Perché lo sforzo è questo, che se voi vi affezionate troppo a una storia, vi perdete quella dopo. Quindi fate così, voi ad ogni racconto che sentirete, innamoratecivi, fidanzatevi, fate quello che volete, però poi fateci la pace col fatto che è finito e che ce n'è un'altra, perché quella storia lì vi porta da un'altra parte. Le storie di stasera parleranno di amori leggerissimi, parleranno di malattie gravi da cui si guarisce, parleranno di fughe dalle dittature e parleranno di compagni di scuola a cui si sono fatti scherzi da prete e che ci sono rimasti letteralmente sotto. Quindi l'errore l'ho fatto, ve l'ho chiesto, vi ricordo e vi ripeto, sono 10 storie, seguitemi e andiamo da un'altra parte. Questo è Voi Siete Qui. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro, sono un bolognese di nascita e romagnolo di adozione. Oggi vivo a Ravenna con la mia famiglia, con mia moglie e le nostre 2 bambine. Ho scritto questo racconto su un episodio della mia infanzia, di quando avevo 9 anni, e episodio a cui sono sicuramente molto legato, non solo per il fatto in sé che diciamo non sconvolse completamente la vita della mia famiglia, ma in qualche modo contribuì a indirizzare in maniera diversa. In quel periodo poi passavo dei bei sabati mattina con mio babbo, che oggi non c'è più, e che spesso in quel periodo lavorava fuori città durante la settimana. Quindi al sabato era tutto per me, e tra i riti del sabato mattina c'era anche quello della schedina fatta assieme. Questo quindi è il mio racconto di quando feci 13 a Totocalcio. Ciao! Era il 1980 e avevo 9 anni. Una grande passione per il calcio e l'intera collezione di figurine Panini. Immagini mitiche di quei calciatori con le maglie attillate, i baffi spioventi, le basette esagerate e i capelli aggrovigliati su facce da mastini. Niente stranieri, solo campionati autarchici, pieni di 0-0 nebbiosi. La mia squadra era il Bologna, il mio idolo il centroavanti, Stefano Chiodi. Ogni sabato mattina, dopo la sosta al panificio, io e mio babbo ci facevamo strada tra il fumo denso che ammorbava il bar Cirenaica, sulla via Emilia, periferia della città che guardava verso Modena, e ci sedevamo a un tavolino appartato vicino ai biliardi per la nostra mezz'ora sopra la schedina. Una colonna a testa, lui chiamava ad alta voce le partite, io davo il mio segno, lui tirava la sigaretta pieni polmoni e scriveva il suo. Non esistevano i sistemi, colonna secca, 1, X o 2. Guerri sportivo alla mano, si analizzavano gli ultimi risultati, si commentavano le prestazioni dei singoli, con un occhio attento alla classifica, gol fatti, gol subiti e via. Lucidi, non passionali, o almeno provavamo. Mio babbo ogni tanto la sparava grossa sul Bologna, pronosticando vittorie inverosimili per una squadra che vedeva spesso la salvezza solo alle ultime giornate. Quel sabato di novembre battezzai un solo 2, Torino Catanzaro. Mio babbo, riportando il segno sulla schedina, fece una smorfia. Lui vedeva ancora nei Granata il grande Toro, quello che pochi anni prima aveva vinto lo scudetto. Senza esitazioni, lui mise un 1 sulla sua colonna. La domenica pomeriggio, Massimo Palanca, il capitano dei calabresi, fece il miracolo. Io ero in soggiorno ad allenarmi a tirare punizioni con un subbuteo. Con un occhio guardavo gli aggiornamenti che scorrevano in TV sopra ad un corrado in bianco e nero. Alla fine delle partite andai da mia mamma, che stavo lavorando in cucina, e le dissi: secondo me ho fatto 13. Lei aveva già alle spalle circa 25 stagioni di schedine accartocciate nel pattume e non reagì più di tanto alla mia affermazione. Io però non potevo aspettare. Andai quindi a svegliare il detentore della schedina. Dopo qualche minuto di sbuffi e rantoli, il babbo aprì gli occhi in maniera definitiva. Sonnellino pomeridiano interrotto in maniera traumatica. Tornai in soggiorno e mi misi ad aspettarlo seduto vicino alla sua sedia. Lo vidi apparire nella classica tenuta da domenica pomeriggio autunnale, pesante tuta turchese e calzini di lana grossa. Passò una manciata di minuti prima che comparisse il faccione di un giornalista della RAI a dare i risultati e i marcatori, mentre sullo sfondo passava la foto di Bettega, che saltava, occhi chiusi e spettinato, Castellini sdraiato per terra. Il giornalista scandiva lentamente i risultati in modo da consentire al mio babbo di riportare il relativo segno sulla schedina, roba da 30 secondi al massimo. Quegli istanti sono tutti davanti ai miei occhi. Il viso di mio babbo, dapprima concentrato nella scrittura e nel successivo controllo delle due colonne, e poi sfigurato in un urlo. 13. Hai fatto 13. Mia mamma arriva quasi preoccupata. Lei non poteva concepire che si potesse vincere al Totocalcio. Volle controllare lei di persona e non sapeva nemmeno cosa fosse un 2, ma volle comunque assicurarsi che mio babbo non avesse detto una boiata. E non l'aveva detta. Avevo fatto 13. Le due ore successive furono interminabili. Come per le azioni filmate, anche per le quote delle vincite bisognava aspettare. Si doveva aspettare 90° minuto. Mio babbo cercava di smorzare gli entusiasmi, diceva che la schedina era un mare di X. E quindi una colonna di quel tipo poteva dare al massimo 1.000.000 lire. Certo, però, c'era il partitone del Catanzaro. Mia mamma ghignava nervosamente, alzava gli occhi verso il soffitto e scuoteva la testa. A quei tempi noi non ce la passavamo bene. Eravamo sotto sfratto e i miei avevano fatto un passo troppo lungo. Comprare casa. Una sera il babbo era tornato con una busta. Aveva ritirato dalla banca tutti i risparmi della famiglia. 8 milioni. Beh, francamente pochini se ti sei impegnato per una casa da un centinaio. Roba da mutuo da tramandare fino alla quarta generazione, anzi, roba che il mutuo, se non trovavi qualche soldo, manco te lo davano. E poi, in TV, arrivò Paolo Valenti con la sua giacca a scacchi e ci disse che avevamo vinto 15 milioni. Quei soldi ci consentirono di comprare quella casa dall'altra parte di Bologna. Lì io passai la mia adolescenza, conobbi gli amici che sono gli amici di oggi, diedi il mio primo bacio, feci tutte quelle cose che tra i 10 e i 20 anni indirizzano l'esistenza di una persona. E il tutto per un gol di palanca. Ciao, mi chiamo Federico Bernocchi, ho 35 anni, sono di Milano ma in realtà in questo momento sono a Roma per lavoro. Il mio racconto parla di un periodo di passaggio, quando sei piccolo e a un certo punto invece succede una cosa per cui capisci che forse poi non sei più tanto piccolo. Nel momento in cui scopri che sfortunatamente non sei quello che speravi o comunque pensavi di essere. Questo diciamo è quello, l'idea con cui pensato di scrivere questo racconto. Poi in realtà quando Matteo l'ha letto in trasmissione ho capito che parla anche di altro, parla anche del rapporto che avevo e ho tuttora con mia mamma e del lavoro che ha fatto lei per in qualche modo preservare l'idea che invece avevo io di me stesso. Gran parte delle mie vacanze le ho passate a Palaisieux, piccolo paesino della Valle d'Aosta, a metà strada tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur. I miei avevano preso un piccolo appartamento in un condominio. Tra l'altro, questo condominio si vede per una frazione di secondo nel video della canzone Children di Robert Miles, una delle canzoni più zarre di tutti gli anni 90. Quando l'ho visto per la prima volta, ancora un po' mi mettevo a piangere dalla malinconia. Comunque, ci ho passato veramente tantissimo tempo io in quel condominio. Doppie vacanze tutti gli anni, estate e inverno. C'è stato un momento della mia vita in cui sembrava che io sarei potuto diventare uno forte sugli sci. E allora, una volta partita la stagione invernale, al suono dell'ultima campanella del venerdì, lasciavo la scuola per andare ad allenarmi lì. Poi, a un certo punto, mi sono rotto. Mi sono rotto un malleolo e le palle, per cui non sono mai diventato un campioncino di sci. Peccato. Ma comunque ho passato secoli in quel condominio. Di tutti i ricordi che ho legati a quel posto, e sono veramente tanti, tra cui citerei almeno quella volta che le gemelline della Scala F mi hanno dato 500 lire per far vedere loro il pisello, ce n'è uno particolarmente vivido. Quella volta che ho capito che non avevo neanche un superpotere. Era estate, faceva molto caldo. Ero andato in paese a fare la spesa con mia mamma. In paese, per noi, in quel posto, voleva dire da la signora Renza, una donna ciccionissima che aveva un bar tabacchi e un alimentare. Due esercizi diversi, uno di fronte all'altro, nell'unica piazzetta di Pallesio. Lei stava solitamente al bar, ma se vedeva che c'era qualcuno dell'alimentari, usciva, attraversava la strada, lenta, come un bradipo grasso, e ti veniva a servire. Avevamo fatto la spesa e stavamo tornando verso casa. Mia mamma era carica come un mulo di sacchetti e io ero piccolo. Ma piccolo, tipo che le mamme cariche di sacchetti come dei muli non ti chiedono neanche di portare i sacchetti perché sei troppo piccolo. Ronzavo attorno a mia mamma facendo un casino senza senso e agitando per aria una macchinina appena ricevuta in regalo. Avevamo preso la strada da sotto, per cui adesso, per raggiungere di nuovo il nostro appartamento, c'era da fare una salita molto lunga. A un certo punto, tra un vrum vrum e un altro, dico a mia mamma: «Mamma, lo sai che sono un extraterrestre? Sono nato su Marte e so volare? Guarda, sparo i raggi dalle mani! Piu, piu!» Lei mi ha guardato con tutto l'amore del mondo e mentre faceva fatica a portare i sacchetti di plastica per quella lunga salita sotto il sole di agosto, mi ha guardato e mi ha detto: «Davvero? Che bello!» Era stanca e aveva uno strano tono nella voce, un tono che adesso che sono vecchio so che si chiama accondiscendente. E allora mi sono fermato un secondo e ho capito. Ho capito che non era vero. Non ero un alieno e non avevo nessun superpotere. Ciao, sono Eros, abito a Calmasino di Bardolini, in provincia di Verona, sul lago di Garda. Ho 32 anni e il mio racconto è proprio una piccola parte della mia vita. Un momento in cui la mia vita è cambiata radicalmente, quando ho fatto un incidente, ho perso una gamba, ma non ho mollato, sono andato avanti. Grazie anche delle persone che mi hanno aiutato, sono riuscito ad arrivare a fare addirittura due Olimpiadi. Ciao Matteo, alla prossima, grazie. Era il 28 luglio del 2002, avevo 21 anni, ne avrei compiuti 22 due giorni dopo. Io con la mia fidanzata, ora mia moglie, eravamo in sella alla mia moto sull'autostrada del Brennero, una caldissima giornata d'estate, diretti verso un laghetto del Trentino. D'estate il Trentino è un luogo splendido e la gente lo raggiunge per passarci del tempo. Il Trentino però è anche la porta dell'Italia per chi dalla Germania o dall'Austria viene a trascorrere le sue vacanze qui da noi. Quindi quell'autostrada, la A22, è sempre un lungo biscione d'auto. Io mi trovavo sulla corsia di sorpasso, circa 110-120 km all'ora. La corsia di destra era un'interminabile colonna di auto e di caravan. All'improvviso, dietro di me, arrivò un'auto. Io mantenevo la traiettoria e la velocità, visto il traffico per me era impossibile rientrare a destra per farla passare. L'auto però non si dava pace e mi stava a distanza estremamente ravvicinata, facendomi gli abbaglianti per segnalarmi di volere passare. Io, non avendo la possibilità di rientrare, mantenni la mia traiettoria e continuai tranquillo. Questo veicolo però non la smetteva di starmi vicino, fino al momento in cui io sentii la mia moto oscillare nella parte posteriore e vidi il suo cofano vicinissimo al ginocchio della mia gamba sinistra. In un attimo Un colpo ha fatto balzare via la moto. Ho visto la mia ragazza decollare sopra di me e io, volando via, finivo rotolando molti metri più avanti. Passavano numerose automobili che non si fermavano. Non so quanto sia durata la caduta, ma nella mia testa è stata come un film in cui i fotogrammi sono separati l'uno dall'altro. Le immagini non erano a rallenti, no, erano proprio come dei segmenti in cui potevi vedere un dettaglio preciso, uno dopo l'altro. E intanto erano passati pochi secondi, quando a un certo punto ho tentato di rialzarmi ed ero tutto intero. Non avevo dolore, ma al primo tentativo di mettermi in piedi ho avuto la sensazione di infilare il piede in una buca sull'asfalto bollente e sono caduto. Mi sono sfilato il casco e ho tentato di alzarmi nuovamente, ma il mio piede destro sprofondava sempre in questa buca, facendomi cadere. Le macchine passavano, il caldo era soffocante e nella confusione iniziai a sentire una voce che mi gridava di stare fermo e di non togliere il casco. Finalmente qualcuno si era fermato. In quel momento abbassai la testa e guardai il suolo per localizzare quella buca che non mi permetteva di alzarmi. Di buche però nemmeno l'ombra, ma la mia gamba destra, pochi centimetri sotto il ginocchio, non c'era più. Non ricordo cosa pensai, non ricordo cosa feci, non ricordo dove guardai. Nel turbine di pensieri, nel giro di pochissimi secondi, un ragazzo alto, robusto e calvo ha attraversato l'autostrada. È venuto verso di me con le macchine che continuavano a sfrecciare. Il momento era difficile, le macchine continuavano a passare senza fermarsi. Lui con grande tranquillità si è sfilato dai pantaloni la cintura e l'ha stretta intorno alla mia coscia. Lo sentivo lì, vicino a me, mentre le macchine continuavano a passare. Lui ha iniziato a parlarmi serenamente. Dava l'impressione che tutto fosse sotto controllo. E mentre stringeva la mia gamba, la sua voce mi dava sicurezza e mi diceva: «È tutto a posto». Il mio pensiero era rivolto alla mia ragazza, gli chiesi di lei e lui mi rispose di non preoccuparmi, che stava bene. La sua presenza mi rassicurava, come una specie di gigante buono che mi aveva preso tra le sue braccia. Però io avevo capito che cosa era successo alla mia gamba. Mi disse di essere un militare, un alpino. Mi raccontò che era di Milano, che si chiamava Riccardo e che stava tornando a casa per le vacanze. Ed è rimasto con me per quei lunghissimi 15 minuti. Abbiamo parlato tanto, io e Riccardo, fino all'arrivo dell'elisoccorso. Lui mi ripeteva: non ti preoccupare, tornerai a fare una vita normale. E io non so nemmeno il perché mi fidassi di quell'uomo enorme che aveva attraversato l'autostrada per venire a salvarmi. Però sapevo che diceva la verità, o forse non potevo fare altro che credergli. Lui era lì con me e non mi ha mai lasciato. Teneva sempre quella cinghia stretta sulla mia coscia. Ho scoperto poi che senza il suo intervento mi sarei dissanguato in pochi minuti. All'arrivo dei soccorsi e a traffico bloccato, auto di curiosi si fermavano anche sulla corsia opposta e Riccardo mi proteggeva anche lì, gridando che non c'era niente da vedere. Mi sentivo protetto dal suo corpo e da quella voce sicura che ricordo ancora oggi. Io sono stato sempre lucido, cosciente, non ho mai perso i sensi, fino all'arrivo all'ospedale di Verona, in elisoccorso. Quando mi sono svegliato ho avuto dolore per oltre 3 mesi, ma avevo salvato la vita. E tutto questo grazie alla prontezza e alla preparazione di quel militare che ha bloccato l'emorragia. Ma la mia storia non finisce qui. Un anno dopo, con molti problemi e difficoltà buttati alle spalle, ho avuto l'idea di iniziare un'attività fisica, forse l'attività fisica per eccellenza, la corsa. Ho iniziato a correre con una protesi. Dopo aver acquistato una gamba da corsa, ho cominciato a dedicarmi all'attività sportiva, arrivando a partecipare alle Paralimpiadi di Atene nel 2004, correndo in 12 secondi e 12 la finale dei 100 metri. L'anno successivo ho esordito anche nel salto in lungo agli europei in Finlandia, saltando oltre 6 metri. E nel 2008 sono tornato alle Olimpiadi. Sono partito per Pechino, dove ho corso nei 100, 200 e salto in lungo. E questa è la mia storia. Ciao, mi chiamo Simona Angioni, abito a Milano, e ho 38 anni e la mia storia parla di due momenti, quando ci si incontra e quando ci si lascia, e dell'odore che ti rimane addosso.

mi chiamo Edith Kishmariai e vivo a Trento. Vivo in Italia da 40 anni. Sono originaria dall'Ungheria, sono ormai in pensione, sono ancora molto attiva, non ho una famiglia, la mia famiglia più vicina è mia sorella che vive in Svezia. Il mio racconto parla del momento in cui ho lasciato il mio paese. Avevo 12 anni e sono fuggita con mia madre e mia sorella attraverso l'Austria per lasciare l'Ungheria. Budapest, 4 novembre 1956, ore 12:23. Appello, appello urgente a tutti. Qui parla Radio Europa Libera di Budapest. Chiediamo aiuto per la rivoluzione. Centinaia di carri armati nemici stanno attaccando la capitale. Chiediamo aiuto per la rivoluzione. Budapest, 4 novembre 1956, ore 13:12. Appello alle Nazioni Unite da Radio Europa Libera. Dalle 2:30 di stamattina, truppe nemiche stanno sistematicamente attaccando l'Ungheria. Chiediamo all'Organizzazione delle Nazioni Unite di inviare immediatamente degli aiuti. Chiediamo anche la presenza di osservatori delle Nazioni Unite nel nostro paese e nella capitale, Budapest. Aiuto, qui è la radio indipendente e libera. Per ora, interrompiamo la nostra trasmissione. Vienna, 7 dicembre 1956. Carissima nonna, ora ti voglio scrivere di quello che ci è capitato da quando siamo partiti. Alla stazione di Budapest c'era già un mucchio di gente e non c'era posto a sedere, solo per la mamma. Guardavo dal finestrino anche se non c'era un granché da vedere e mi facevano male le gambe dallo stare in piedi. Dopo lungo tempo siamo arrivati in una stazione dove c'erano dei soldati armati. Due sono saliti per dire molto gentilmente che chi era diretto ad ovest faceva meglio a scendere, perché la prossima stazione c'era già il nemico. Allora siamo scesi. Era sera ed eravamo in un piccolo paese senza luci. Una signora gentile ci ha offerto del tè e un letto per la notte. La mattina dopo ci ha accompagnati a un piccolo treno locale. Con questo potevamo raggiungere l'ultimo villaggio prima del confine. Il capotreno ci disse che avrebbe rallentato il treno se c'era il pericolo di soldati nemici. E infatti abbiamo dovuto saltare giù dal treno in movimento. La mamma si è anche fatta male a un piede e ci siamo nascosti in un fienile. Qui abbiamo aspettato la sera. Poi due signori, contadini, diceva la mamma, accettarono di farci da guida verso la terra libera. Quando abbiamo raggiunto la strada principale, si sentiva in lontananza il rumore di una motocicletta, così abbiamo dovuto saltare nel fossato, sotto un ponte, per non farci scoprire dai fari. Se ci facevamo vedere, allora era la fine. Abbiamo lasciato velocemente la strada e proseguito attraverso i campi arati, inciampando nelle zolle e affondando nel fango. Dovevamo spesso sdraiarci per terra per non farci scoprire dai riflettori. Lontano si sentiva anche il tra tra tra delle mitragliatrici. Il confine era invisibile, non lo indicava niente. Ma i contadini lo conoscevano e prima ancora di arrivarci ci salutarono per poi tornare a casa loro. Prima di partire ci mostravano una luce su in alto e ci dissero che quella era la torre di guardia della frontiera e noi non dovevamo avvicinarla per nulla al mondo. A un certo punto eravamo troppo stanchi, non ce la facevamo più. Seduti per terra guardavamo la luce lontana di quella torre e in quel momento la torre cominciò a suonare le 12. Che sorpresa, nonna. Abbiamo scoperto che non era una torre di controllo, ma pensa un po', il campanile di una chiesa con l'orologio illuminato. Eravamo troppo stanchi per cercare il villaggio nel buio, così ci siamo addormentati in un fienile, anche se non sapevamo ancora da quale parte del confine ci trovassimo. La mattina presto vennero due uomini della Croce Rossa con torce e coperte. Eravamo salvi. Cara nonna, vedi quante cose ci capitano quando non sei con noi. Per favore, abbi cura di Mizzi e saluta il mio albero. Ti abbraccio forte forte. Questa lettera dava una spiegazione degli eventi che avevano condotto quella ragazzina di 12 anni in un nuovo paese, ma non raccontava delle conseguenze che quell'episodio ebbe sulla sua vita. Forse la nonna, rimasta sola nella vecchia casa silenziosa, era stata capace di leggere tra le righe e sentire la paura non espressa in parole e la nostalgia per un'esistenza che i capricci della storia avevano cambiato così radicalmente. La nonna oggi non c'è più, ma quella ragazzina che ero io a quel tempo ha voluto raccontare la propria storia ai nipoti o a chi volesse ascoltarla. Mi chiamo Massimo Pittarello, ho 28 anni e ho i capelli rossi. Questa è la storia di un irlandese a Roma, una storia che mi è capitata una volta su un autobus dove appunto mi sono finto irlandese perché non avevo il biglietto, perché in realtà non prendo molto gli autobus, quando posso cerco di evitarli a Roma perché sono comunque un'esperienza di vita tutte le volte e anche un po' un esperimento sociale. Quella volta diciamo mi ha dato è nata questa storia. In realtà soprattutto in gioventù e in infanzia avere i capelli rossi è una caratteristica che può così portare a essere oggetto di scherno. A Roma si dice roscio e poi derivano tutti i modi di dire, per cui arrosci e cavalli pezzati, bruciati gli appena nati, roscio se te fai la riga a mezzo pari in gettone, oppure un altro modo leggermente più elegante di dire è prospero, che vuol dire fiammifero. Siccome ho la capoccia rossa si dice prospero non struscia a bettera che pii fuoco. E quindi al di là di questo, così ad oggi me la vivo con più tranquillità e questa storia parla della mia faccia, parla dei capelli rossi e parla proprio di una piccola vendetta che è nata proprio dai capelli rossi. Mentre mi avvio verso il capolinea vedo partire l'autobus, corro alla fermata successiva e salgo al volo. Contento e senza fiato mi siedo sul sedile in fondo, mentre apro il mio libro con copertina gialla e vistosa intestazione recitante Irvin Welsh, mi ricordo di non avere il biglietto. E me ne faccio una ragione. Sarà stata quella scritta cubitale e anglosassone ad ingannare il controllore ATAC, probabilmente. Appena salito dalle porte posteriori, lui e i suoi due colleghi che invece erano rispettivamente da quella centrale e da quella anteriore. Sarà perché non mi chiede subito il biglietto che all'inizio io spero sia la solita comitiva di autoferrotranvieri che ritorna al deposito dopo il turno di lavoro. E invece no. Il ragazzetto romano in divisa ATAC e Ray-Ban di ordinanza è proprio lì per controllare i biglietti ai passeggeri. Già lo immagino impugnare la penna e firmare un verbale. Comunque sia, i suoi vetri a specchio si rivolgono al controllo dell'obliteratrice che stranamente funziona. Questa volta l'obliteratrice funziona. Penso che sono fregato. Il librone che sto leggendo mi nasconde come la terra nasconde uno struzzo, ma la scritta gigante dell'autore scozzese in copertina mi aiuta. L'omino vestito ATAC e Ray-Ban mi guarda, apre bocca, ma non parla. Comincio a pensare che mi abbia scambiato per uno straniero. Poi lo sento che si rivolge a me in inglese. Hello? Penso che c'è qualcosa che non quadra, ma in un attimo mi ricordo dei miei capelli rosso irlandese e del libro in inglese. In un inglese stentato il controllore mi chiede Ticket please? Rimango in silenzio e lui ancora Ticket please? L'occasione è unica. Il mio accento british ancora abbastanza oliato e la mia faccia tosta sono impaziente di manifestarsi. Faccio la faccia più irlandese che ho e gli rispondo Well, I'm sorry, I'm not Italian, I didn't know the ticket wasn't available on the bus. Sorry, can I buy it now? Parlate inglese, eh? Can I buy it now? Lui capisce che gli chiedo di comprare il biglietto sull'autobus come si fa in Inghilterra e scuota la testa. No, no possible, no ticket on the bus. Passport please. Gli spiego nel mio inglese, arriva l'inglese, piano piano ma... gli spiego nel mio inglese migliore che non ho con me né il passaporto né i documenti, perché non li porto mai con me. Implacabilmente ligio al dovere, il tutore della legalità della municipalizzata mi dice: no passport, come with me. Poi si gira visibilmente alterato verso gli altri colleghi e in romanesco dice: oh, poi siamo noi a fare l'incivili, guarda st'inglese che sta senza biglietto. Io a quel punto ho quasi esaurito il mio aplomb inglese, lui mi guarda, io lo guardo, ci guardiamo e poi decido ad abbassare la maschera e gli confesso: sentici, non so straniero, so di Roma, er biglietto non ce l'ho, er documento nemmeno, ma se mi porti in questura e ci raccontiamo sta storia, sai che zimbello che diventi. Meglio il romano che l'inglese, mi sembra di capire. Le porte dell'autobus si aprono in quel momento. La sua bocca si spalanca, ma riesce a pronunciare solo tre parole, in perfetto italiano. Dai, scendi, sparisci. Mentre mi allontano, sulla mia faccia da irlandese compare un lieve sorriso. Dopo anni di pubertà passati a soffrire per prese in giro e offese, mi compiaccio che stavolta sia stato qualcun altro a doversi sentire imbarazzato per il colore dei miei capelli. Mi chiamo Elisa, ho 48 anni e vivo a Viareggio. E questa è la storia di una passione, la passione della montagna, ma è anche la storia di una malattia, una di quelle che i medici definiscono una malattia grave che ho dovuto affrontare 3 anni fa, ma è soprattutto la storia di una rinascita, di come dopo la malattia si può tornare alla vita di prima. L'idea di questo racconto mi è venuta l'anno scorso facendo un trekking in Nepal, un trekking abbastanza faticoso ma bellissimo che serviva di preparazione alla salita a 11.000. E un giorno mi sono detta che forse sarebbe stato bello lasciare una traccia, una testimonianza su come ci si può lasciare alle spalle la malattia e si può riprendere la vita che si faceva prima, magari anche con maggiore entusiasmo. E la mia speranza era che, ed è anche, che qualcuno un giorno che si trovi ad affrontare il mio stesso problema, magari riesca a trovare in queste poche parole un po' di coraggio per affrontare appunto la malattia. Ed è sicuramente questo il motivo che mi ha spinto a scrivere questo racconto. Le punte dei ramponi entrano scricchiolando nella neve ghiacciata. Con la mano immersa nella moffola in piuma da alta quota, impugno la picozza che avanza con me. Ad ogni passo lungo questa stretta e ripida cresta finale. Ed ecco che, quasi improvvisamente, arriva la vetta. Mi guardo intorno e vedo solo neve e montagne. Il cielo è limpido, il sole si è alzato da poco e lentamente inizia a scaldare l'aria. Sono in Nepal, sono in vetta a 6.189 metri dell'Island Peak. È il 16 aprile del 2011 e sto piangendo. E non è solo la gioia del successo e la mancanza di ossigeno nel mio corpo, no. È che proprio oggi, 2 anni fa, per uno strano gioco di coincidenze, entravo nel Day Hospital di Oncologia, nell'ospedale della mia città, per sottopormi al primo di 6 cicli di chemioterapia. E ora sono qui. Vale un bel pianto, no? Ho iniziato ad andare in montagna quando avevo 5 anni. Ricordo ancora la prima vetta. Mio padre si era dovuto caricare, oltre al suo, anche il mio piccolo zaino, anzi, il tascapane, come si diceva allora, rigorosamente acquistato al mercato degli americani di Livorno, riempito di borraccia, maglia e un paio di panini, ed era lì, tutto sudato, accanto a me, e mi indicava le altre cime che sbucavano dal mare di nubi che ci impediva di vedere la pianura. Ecco, forse è nata quel giorno la passione per la montagna, una passione che mi accompagna da più di 40 anni, anche se ci sono stati periodi di forzato distacco, come negli anni dell'università, quando mi ritrovavo a studiare tutta la domenica, o quando all'inizio della professione, passando da un incarico all'altro, da una città all'altra, il tempo libero lo spendevo preparandomi ai concorsi. Le montagne comunque erano sempre lì, anche solo una foto attaccata alla parete o una rivista da leggere. Poi è arrivato finalmente il lavoro e gli orizzonti si sono allargati, non più solo le Alpi, ma anche le Ande, l'Himalaya e i deserti. I viaggi solo sognati, piano piano, in parte sono diventati realtà. E poi, 2 anni fa, la diagnosi. Il medico aveva appena pronunciato le fatidiche parole. L'esame istologico ha evidenziato cellule tumorali. La stanza aveva iniziato a ruotare. Mi ero dovuta sedere per evitare di cadere per terra. E mi stavo dicendo, adesso vado all'ultimo piano e mi butto di sotto. Non l'ho fatto. Ho affrontato il secondo intervento, più invasivo e mutilante del primo. La mia femminilità violata fino nell'intimo. Ho perso definitivamente la possibilità di avere un figlio. Eppure, quando l'infermiera mi ha detto di pensare a qualcosa di bello per addormentarmi serena, mi sono ritrovata ad immaginare di essere al fronte, di essere di fronte al Monte Bianco, e sono riuscita persino a sentire l'odore dell'erba al sole dell'estate. Sono iniziate a cadere i capelli. Poi, il giorno in cui, stufa di trovarli in giro per casa, mi sono passata l'aspirapolvere in testa, ho deciso che era arrivato il momento di tagliarli completamente. Con il primo ciclo è arrivata la stanchezza, una stanchezza mai provata, impossibile da combattere. Io volevo essere normale e il fine settimana che precedeva il ciclo successivo mi ostinavo a provare ad andare in montagna comunque. Faticavo in un modo inaccettabile, su qualche sentierino alpino, per poi ritrovarmi il mercoledì mattina ancora con le gambe indolenzite e la flebo al braccio. Il bello era che i dottori dicevano: lei può comunque fare una vita normale. Sì, però la mia normalità non era la loro, perché non è normale salire le 2 rampe di scale per entrare in ufficio e fermarsi a metà per riprendere fiato. Quando sembrava di essere finalmente in fondo, ecco che dopo l'ultimo ciclo una setticemia mi costringe ad un nuovo ricovero. Il cuore lavora al 32%, per 2 giorni respiro con l'ossigeno, un rene non funziona e qualche dottore sostiene che difficilmente tornerò quella di prima. Eppure, miracolosamente, un giorno tutto finisce e io posso tornare a riprendere una vita normale. Il primo giorno che sono tornata a correre dopo 8 mesi di inattività ho vomitato dalla fatica. Ho dovuto accettare di non avere fretta e cercare di recuperare per gradi. Inverno, ciaspole e sci di fondo. Estate, trekking e qualche 4.000. So che dovrò convivere con la paura di ammalarmi ancora e non posso dire che la mia vita sia la stessa di prima della malattia, ma non riesco nemmeno a dire che è peggio. Diciamo che è diversa. In qualche modo è anche migliore. Tante cose sono diventate irrilevanti e tante altre invece hanno acquistato più valore, come i giorni come questo. Ecco, oggi sono in vetta a questo 6.000 himalayano, in questa splendida giornata di sole, con le lacrime che non smettono di scendere. È il mio quinto 6.000, ma questo vale molto di più di tutti gli altri. Abbraccio il mio compagno di vita e di cordata che da 5 anni condivide con me le cose brutte e belle e mi ha sostenuta con la leggerezza e l'ironia che conosce. Ci guardiamo e sorridiamo felici. La fatica che abbiamo provato nel salire sembra già un ricordo lontano. Pochi minuti in vetta e dovremo iniziare la discesa. Ogni volta ci diciamo che questa è l'ultima volta che arriviamo così in alto, ma so già che fra qualche ora, quando avremo superato le parti più impegnative, ci diremo quale sarà il prossimo. Ancora non lo so, ma so che oggi il mondo è sotto i miei piedi e che mi sento viva. Perché sto bene, perché sono felice, perché sono qui. When you're absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. When the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways. Best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gates. Original sinners never felt a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters, who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. Ah. Il mio racconto parla di come si può cambiare idea, ritornare sui propri passi e comunque essere contenti, essere felici, dopo che ci si è accorti che la decisione presa in precedenza non era delle migliori. Ciao a tutti e grazie. Ogni mattina faceva bella mostra di sé, ferma, immobile, con il suo nome scritto in verde sulla fiancata bianca. Non solo aria. È il nome di una barca a vela, un 4 posti al massimo. Non solo aria mi tiene compagnia da circa 3 anni. La vedo ogni mattina quando vado al lavoro, poi la rincontro sui miei passi, la sera, mentre torno verso casa. Sono passati quasi 3 anni da quando ho preso la decisione di lasciare il servizio operativo. Sì, sono un poliziotto, uno sbirro. 27 anni della mia vita li ho passati in polizia, sulle volanti. Gli ultimi 3 invece li ho trascorsi in un ufficio a pulire la sedia con il sedere, per citare una frase da film poliziesco americano. La famiglia, i figli, la stanchezza fisica e psicologica, tutto questo mi ha indotto a chiedere l'assegnazione al servizio in ufficio. I primi tempi tutto era una novità e le cose scorrevano tranquille. Poi, pian piano, una certa agitazione ha cominciato a farsi sentire. C'era qualcosa che non andava. La mattina diventava sempre più difficile alzarmi e le giornate non passavano mai. Quando stavo alle volanti sono sempre andato al lavoro contento. Per me indossare la divisa prima di uscire di casa era un rito, un'azione che richiedeva i suoi momenti e i suoi movimenti precisi. La divisa sistemata sempre allo stesso modo sul letto, la penna e poi il distintivo da attaccare sulla manica della giacca. Per ultimo, il cinturone. Un'occhiata alle previsioni meteo e poi via, si parte. Ora invece in ufficio non è più la stessa cosa. Ma mi manca il coraggio necessario per tornare sui miei passi e soprattutto il coraggio di comunicare i miei tormenti alla mia famiglia, proprio ora che tutti si sono abituati alla mia nuova e regolare vita. Poi, una mattina l'ho vista, non solo aria. Era visibile dalla strada, pensai che il proprietario l'avesse messa lì per venderla. Ogni mattina che passavo davanti a Non Solo Aria, io mi vedevo al timone mentre affrontavo gli oceani. Proprio io, che non capisco niente di vela o di barche in genere. Arrivavo in ufficio contento, pensando che comunque anche Non Solo Aria aveva avuto la sua carriera alle spalle. Chissà quanti viaggi e in quanti luoghi sarà stata. Ora invece è lì, anche lei, come me, ferma, immobile. Finché una mattina, nei pressi del deposito barche, rallento come al solito per darci uno sguardo, ma non la vedo. Non solo aria, non è più al suo posto. Faccio inversione, non me ne frega niente se arrivo in ritardo. Voglio vedere dov'è la mia barca. E alla fine, eccola lì, posizionata su dei blocchi molto più in basso, ad altezza d'uomo. E c'è un operaio che ci sta mettendo mano. Che succede? Ritorna in acqua. Se Non Solo Aria ritorna in acqua, anch'io posso tornare in strada. Qualcuno ha detto, solo gli imbecilli non cambiano mai idea. A metà mattinata avevo già consegnato la richiesta per tornare in strada. A casa pensavo peggio, mi hanno detto che si aspettavano che lo facessi prima, questo passo. La mia insofferenza si vedeva. Ecco, ora sono in attesa di iniziare il servizio dopo 3 anni di fermo biologico. Stasera risalirò sulla volante. Piove e non ho guardato le previsioni meteo prima di uscire. Non solo aria è tornata al suo posto, visibile dalla strada, in attesa di trovare un acquirente che io spero non arrivi mai. È stata completamente rifatta, è bellissima. Sono tornati anche i miei riti prima di uscire di casa, solo che se ne è aggiunto uno nuovo. L'ultimo gesto prima di uscire di casa è quello di mettermi in tasca una foto di Non Solo Aria. La facciamo questa presentazione? Che dici? Dai. Ciao a tutti, io sono Antonio, vivo a Bari, ho 51 anni e sono l'autore del racconto Margherita. Sono molto felice che sia stato scelto prima per l'ebook che ho letto in maniera vorace, perché anche gli altri racconti erano bellissimi, e sia per questa lettura in diretta. Scusate se ho in braccio il mio Pachi, ma se non ce l'ho in braccio comincia ad abbaiare e non posso fare questa presentazione. Margherita è una storia semplicissima, leggerissima, racconta del mio primo vero amore, che mi ha segnato in maniera giocosa. Raccontarla è stato proprio un bel momento per tornare indietro. Detto questo, vi lascio, perché so che bisogna rispettare il minuto e 30. Auguro a tutti tanto amore e anche una buona estate. E poi chi si è addormentato vuol dire che quello che dico annoia. Arrivederci, stacco. Dell'asilo ho molti ricordi, alcuni ben ordinati, altri spiegazzati dal tempo. Sono però tutti protetti da un velo che li rende languidi, come gli occhi di Narciso nello stagno dei desideri. Le vocali, le bretelle rosse, Calimero, l'odore del refettorio, la mela grattugiata. E ancora la bidella dalle buffe lentiggini arancioni, le schegge di saliva che a velocità supersonica partivano dalla bocca della maestra. Alcuni compagni, come ad esempio Cosimo, che ho invidiato moltissimo perché lui aveva il braccio ingessato e io no. Ricordo, insomma, un bel vivere nel quale ero felice, ma così tanto che a volte sentivo nascere uno spasimo inebriante dalle viscere, come se dentro ci fosse stato il sole. E allora correvo da mio padre e dicevo: «Papà, sono felice assai, come quando uno si sposa». A tal proposito, io all'epoca avrei sposato Margherita. 7 anni, seconda elementare, 2 occhi come 2 fari blu da incantesimo. L'avevo conosciuta ad una festa di carnevale, vestita da olandesina con gli zoccoli di legno grezzo e il vestito azzurro e bianco. Rideva, correva, beveva aranciata ed era rossa in viso come ogni bambino quando ride, corre e beve aranciata. Io, vestito da cavaliere cicisbeo con tanto di cappa e spada, fui accoppiato a lei, all'olandesina più bella del mondo, per giocare a nascondino. Fu lei la prima ad avvicinarsi e, guardandomi negli occhi, mi chiese come mi chiamassi. «Antonio», risposi paonazzo. Allora mi prese per la mano e mi disse: «Antonio, dai, nascondiamoci dietro quella porta, ma mi raccomando, non parlare». Parlare. E chi ce la faceva a parlare? Dietro ad una porta, quasi al buio, con la bambina della mia vita. Parlare per dire cosa, poi? Fummo gli ultimi ad essere scoperti. Per festeggiare, lei cominciò a spruzzarmi acqua negli occhi con il suo anello fatato. Incoraggiato da questo gesto per me dolcissimo, continuai ad adorarla per il resto del pomeriggio e a servirle ettolitri di aranciata. Ero perso di lei. Il giorno dopo, con le gambe penzoloni tra gli spazi della ringhiera del balcone di casa, mi confidai con mio cugino Roberto, che, pur non conoscendola, solo per farmi uno dei suoi soliti paffuti dispetti, disse che quella lì era già fidanzata con un suo amico. Ci rimasi malissimo. E temendo il confronto, stavo per scaraventarlo dal quarto piano, quando lui, impressionato dalla mia sollecitudine, si affrettò a dichiarare che aveva detto una bugia. E solo così si salvò. Da quel giorno Margherita mi rimase in petto. E anche se la scorgevo appena all'uscita di scuola, anche se non sempre mi salutava, era per me la cosa più preziosa della mia vita. Più della Ferrari a pedale con la quale scorazzavo per casa. Quella cisterna di aranciata non l'ho più rivista, ma non l'ho dimenticata. E ancora oggi, se dovessi rivedere quegli occhioni blu, diventerei paonazzo. La prenderei per mano e zitto zitto la porterei dietro una porta qualsiasi, sperando di non essere scoperto. Mi chiamo Massimo Neriotti, ho 39, no cazzo, non... mi chiamo Massimo Neriotti, ho 49 anni e mezzo, faccio il veterinario per i cavalli, no, non faccio il veterinario per i cavalli, mi chiamo Massimo Neriotti, ho 49 anni e mezzo, sono di Torino, dovevo leggere la cosa, no, mi chiamo Massimo Neriotti. Che piccio. Allora. Mi chiamo Massimo Neriotti, ho 49 anni e mezzo. Stacco. Mi chiamo Massimo Neriotti. Mi chiamo Massimo Neriotti, ho 49 anni e mezzo, abito vicino a Torino. Faccio il dentista per i cavalli e la storia che ho scritto parla di un mio compagno di scuola, Scagnolari. Gli ho tirato uno scherzo da prete, ma non volevo fare uno scherzo, in realtà è andata così. Ho scritto una cosa che non dovevo scrivere sul diario e poi la sfiga ci ha visto benissimo. Punto. So che ci sei, eh? Sei da qualche parte qui dentro. E dopo ti vengo a cercare. Nudo convinco. Ma cazzo. Dopo vediamo. So che l'aspettavate questa, eh? Lo confesso ora perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi a scuola, Istituto Tecnico Agrario di Stato Pianezza, provincia di Torino. In classe c'è una lezione di non so cosa. Ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me sta seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e dalla vita non vuole seccature. Vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina e poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco. Mangiare, fumare e guidare il suo motorino. A Scagnolari di tutto il resto non gliene frega niente. Tanto dice che se lo bocciano ancora andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo. Tutti fuori per 10 minuti. Rientro in classe e ciondolo tra i banchi. Tra pochi minuti inizia la lezione della Francheo. Scienze. La Francheo è sui 40, altera, algida, bellissima. Capelli neri cotonati come un leone, cattiva come una merda. Siamo tutti mezzi innamorati e del tutto terrorizzati da lei. È come amare il proprio boia. Rientro in classe poco prima che suoni la campanella di fine intervallo. Sto per sedermi al mio posto quando vedo il diario di Scagnolari sul suo banco e lui è ancora fuori. Afferro il diario e vengo preso da un attacco di scherzo da preti. Mai avuto né prima né dopo in tutta la mia vita. Prendo una penna e sulla pagina di oggi scrivo a grandi caratteri: la Francheo, professoressa di scienze, è una puttana. Chiudo il diario e lo rimetto al suo posto. Oggi con lei abbiamo solo un'ora, di solito se ha solo un'ora fa lezione. Nelle ultime 10 volte in un'ora ha sempre fatto lezione, che va pure bene, eh? Basta stare impietriti a guardarla e seguire parola per parola. La Francheo entra e si siede alla cattedra. Il resto è fatto di iceberg. Io sono completamente dimentico di ciò che ho fatto, tanto oggi spiega. Invece apre bocca e dice:

e alla fine dell'anno venne bocciato. Della Francheo ho perso le tracce, chissà che fine ha fatto. Mi piacerebbe ritrovarla per raccontarle questa storia, ma prima lei mi deve firmare una dichiarazione di non belligeranza con valore retroattivo. Io mi beccai due materie a settembre quell'anno. Avrei potuto essere promosso a giugno, ma forse non ho studiato di proposito. Forse è stato un modo per espiare il mio peccato. Forse. Scagnolari, se tu sentissi questa mia confessione, se tu fossi qui stasera, e sarebbe splendido, fossi qui. Non c'è, vero? Se tu fossi qui stasera, sappi che mi dispiacque tanto, ma ebbi molta paura quel giorno. E ancora oggi vorrei porgerti le mie scuse. Peccato che forse sarai ancora in galera, perché si dice che tu sia finito male, delinquente incallito, a causa di un trauma subito a scuola tanti anni fa. Every day in the previous jungle, steps falling loud and nose going by. Those people all around you, they don't seem to understand, oh no, they don't seem to know. And cloaks are waving their scepters, wouldn't only to go. When you tell me about your secret kingdom, living around you, all of that seems to blow. You've been telling me about the troubled life of your white glove mythological. Back when we left, what was that word you said just before you went? My thoughts are running in a circle inside my head, letting them look as I'm changing my views again. See the morning in a search of my deepest breath. What will I do back here when you leave home? Stiamo finendo, eh? Oggi ho ricevuto un SMS in diretta, proprio poco prima della fine, che diceva: queste storie sembrano scritte tutte dalla stessa mano. Non so che non si è firmato. Di solito quelli che insultano non si firmano. E la cosa incredibile di questo SMS è che è falso, ma dice una cosa vera. Cioè, la cosa vera è che leggendole io, quindi essendo lette da un'unica voce, è chiaro che queste storie sembrano avere tutte lo stesso ritmo. La cosa falsa è che non le scrivo io, e questa sera ne avete avuto la dimostrazione. Ma la cosa è falsa proprio perché a me piacerebbe poter avere scritto queste storie. Ed è questo il motivo per cui vi ho chiesto di fare questo sforzo, che spero sia servito a qualcosa. Ed è che sono molto più interessanti queste storie che qualsiasi altra storia che si possa inventare su due piedi nell'arco di una stagione. E quindi il fatto che queste storie abbiano parlato, come avete sentito, di un incidente gravissimo, che abbiano parlato di una guarigione dopo una malattia, o semplicemente dell'odore che si ha all'ultimo incontro, o del... o di un scherzo fatto ad un compagno di classe, queste sono come una piccola scintilla che accende, credo, qualcosa di molto più grande e anche di molto più caldo di una storia che sia stata scritta ad hoc per essere ascoltata o per essere letta. Ed è per questo motivo che io voglio ringraziare innanzitutto tutte le persone che sono qui, che hanno mandato un loro racconto. Ci sono arrivati più di 1000 racconti in questa stagione, ne abbiamo mandati in onda settimana prossima, con la fine del programma saranno 215, e qui ne abbiamo scelti 10. Quante persone ci sono questa sera che hanno mandato un loro racconto? Se alzate una mano mi fate un piacere. Questa è la dimostrazione che in realtà c'è una marea di gente che è stata trascinata qui dalla fidanzata, dagli amici o peggio anche dal fidanzato. Quante persone invece ci sono delle quali è stato letto il racconto questa sera. Cioè, non questa sera, perdonatemi, è stato letto il racconto in onda. Ah, ma pochissimi siete. Quindi quelli trascinati sono molti di più di quanto immaginassi. Insomma, si potrebbero dire delle robe che non ha tanto senso dire a questo punto, perché le storie erano molto più interessanti. Quindi io vorrei semplicemente chiudere. So che c'è qualcuno delle persone di cui abbiamo letto i racconti questa sera che è qui. Una la vedo ed è Simona. Quindi Simona, anche se ti sei inquadrata e abbiamo visto solo le tue tette, ti chiedo di salire sul palco. C'è un microfono. C'è un microfono, sì che c'è. So che ho visto una ragazza con un microfono. Non c'è. C'era un gelato prima, un microfono. Non importa. Simona ha scritto il racconto che parlava dell'odore prima dell'abbandono. Vorrei chiederti delle cose, ma non ce la faccio perché non c'è un microfono. Quindi aspetta qui, perché poi so che c'è anche Elisa, che ha scritto il racconto dalla quota, dai 6.000 metri di quota e dalla guarigione. Ah, è arrivato il microfono anche. Vabbè, questo non lo so. Simona, vabbè, tu sei di Milano, quindi hai fatto tipo 2 chilometri per venire qui? Sì, e lavoro qua. E lavori qui vicino. Sì. Elisa, invece tu vieni da Livorno. Noi abbiamo fatto un po' di più, da Viareggio. Vieni da Viareggio, sì. E siete partiti quindi stasera. Forse, siamo partiti stasera. Forse il record. No, c'è uno che viene da Roma. Dov'è quello che è arrivato da Roma con la fidanzata, la moglie? No, ma ha tirato sto pacco? Cioè, era 2 settimane che mi diceva, eccolo là, sei tu? Sei un altro? Non ho capito. In che senso sei un altro, scusami? Cioè, sei venuto da Roma, ma eri tu che mi mandavi gli sms? No, vabbè. Però se... Eccolo là. Cioè, là. Non è un ragazzo, è un signore, ma va benissimo uguale. Chi è che è venuto... C'è qualcuno che viene da più... Mi piace sempre fare sto gioco imbecille. Chi è che viene da più lontano di Roma? Vieni da... Ah, da Londra! Cioè, apposta sei venuta! No, aspetta un secondo, c'è un altro microfono? Ce n'erano due, non ho visti due. Le Solerti hostess di Radio 24, un attimo solo. Non c'è. Però Paola, giusto? Paola, vieni da Londra apposta. No, ma non lo devi dire, però. Aspetta. Però... Poi, vabbè, quindi diciamo, Londra batte tutti. Poi delle robe... Vi sentite in imbarazzo qui? Benissimo, rimanete qui ancora un attimo. Ve la ricordate Matilde, la ragazza, bambina di 13 anni? È qui? Mi aveva detto che veniva. No, quindi non c'è qui. Vabbè. E allora, mi ha detto che veniva e non può non essere venuto, l'uomo che vestito piace, nudo convince. Ma... Sponsorizzato Honda e non è un caso. Ciao Massimo. Ciao. Come stai? Ciao. Massimo conosce... Allora, Massimo tra l'altro è venuto anche a Torino al festival, al Salone del Libro, e dopo tempo, mezza giornata mi ha scritto mi sono innamorato di una che c'era allo stand, ma non era l'abbiamo... bellissima, però l'ho persa, non l'hai so persa più, di vista, sì. Non l'hai vista qui stasera? No, proviamo a vedere. No, non l'ho vista. No, io avrei un modo per vedere se convinci veramente, Massimo. No, sono fuori forma, ho avuto un inverno difficile, per cui... Okay. Allora, Massimo, un attimo solo, c'è qualcun altro, perdonatemi, io sapevo che venivano solo loro tre, delle persone che ho letto, perché uno sta in Sardegna, l'altro... Chi c'è? Chi sei? Oh, ma come? Come stai? Ma da Ferrara, quindi? Da Ravenna. Lui ha fatto 13 al totocalcio. Quante volte avete visto una persona che ha fatto 13 al totocalcio nella vostra vita? Ma io non ho mai conosciuto che non ha fatto 13 al totocalcio. Basta? C'è qualcun altro? Si faccia vivo se c'è qualcun altro. No. A posto. Allora, Massimo, la prima cosa è... tutti quanti si chiedono che fine ha fatto Scagnolari realmente... Non lo sappiamo. L'ho cercato, negli ultimi 2 o 3 mesi ho fatto delle ricerche anche con un amico che mi ha mandato dei numeri di telefono, delle mail, eccetera. Io li ho chiamati questi scagnolari, ma non erano lui. Non erano lui. La Francheo, non so che fine abbia fatto, però... La Francheo anche. La Francheo... Mi piace fare un passo avanti, perché temo che le La Francheo... anche quello l'ho persa di vista e anche lei l'abbiamo cercata addirittura dentro una sorta di enorme mega registro di tutti gli insegnanti di tutta Italia dagli anni 60 in avanti, ma... E non è su Facebook la Francheo? Non lo so, neanche io, quindi... Neanche tu sei su Facebook. Cosa vuol dire che fai il dentista per cavalli esattamente? Faccio il dentista per i cavalli. Io sono un veterinario, però mi occupo solo esclusivamente dei denti dei cavalli che ne hanno bisogno. Che ne hanno tanti, tra l'altro. Ne hanno 40. Hanno 40. Anche il video l'hai fatto tu o ti sei fatto aiutare da un amico? No, l'ha fatto un amico mio che fa questo di mestiere. Ah, ok. Poi eravamo in tre. Addirittura. Sì, perché c'era anche il trovarobe e quindi c'era l'operatore, c'ero io e quello che mi passava gli oggetti. Avevo cucinato, c'erano state 2 bottiglie di rosso prima. E ok, sei un po'. Un po' si è notato, non so se. L'ha visto anche mia mamma. Benissimo, e non sarei imbarazzata. No, ha pianto, perché è la tua età. Cioè, Alessandro, scusami, invece tu dici che con quei 15 milioni vi siete rifatti praticamente la casa e la tua vita è dipesa anche da... Anche da quello, sì. Anche sì. Da quel 13. Sì. Non hai mai più giocato al Totocalcio in vita tua? No, cioè uno che fa 13 non gioca più. Giuro che non ho mai più giocato a nient'altro, basta. Neanche un gratta e vinci? Basta. Neanche le slot machine? Niente. Bar. Che cosa fai nella vita? Sono responsabile marketing di una catena di ipermercati. Il marketing, incredibile, c'è ancora gente che fa marketing, Prima fila foltissima del marketing di Radio 24. Scusate, dobbiamo ringraziare loro che hanno fatto tutto quello che... Se siamo qui gratis è anche per merito loro. No, gratis voi, non io pure. E poi chiudiamo e poi salutiamo. Elisa, tu mi dici che cosa fai invece? Sei insegnante? Faccio tu? Il veterinario. No, ma sono un veterinario igienista, no, lavoro all'ASL. Va bene, poi vi appartate tra voi e ne parlate. Simona, invece, tu eri un'attrice, questo lo so, e adesso invece... Lavoro in un'agenzia di pubblicità. Perché c'è ancora marketing, gente, anche qua. C'è ancora gente che fa pubblicità nel 2012, è incredibile, ma è così. Basta, voi rimanete qui. Noi avevamo pensato a una cosa che non so se... Secondo me esce una vaccata, ve lo dico. Però vi avevamo chiesto... Grandi, cioè basta dire vi avevamo chiesto, ok, no, un attimo, calmi, siete veramente pronti e quasi mi imbarazzate, però, scusate, prima, niente, sono partiti, vabbè dai, fate quello che volete allora, un attimo, prima di tutto, questa è una roba che vi giuro non avrei mai fatto in vita mia, ho detto, se il finale va in vacca la faccio e quindi la faccio. È arrivata una mail oggi che diceva così: ciao Margherita, ciao Matteo, vabbè, metti prima Margherita giustamente, sono paride, il mio racconto è stato letto ed è inserito nell'ebook. Proprio oggi ricorre l'anniversario mio e di mia moglie Laura, il 9, e pensavamo di festeggiare con la partecipazione al live di Voi Siete Qui. Tu pensa che culo questa donna, avere un marito così. Poi nei prossimi giorni ci prenderemo una serata solo per noi, figli permettendo. So che la mia richiesta può sembrare fuori luogo, e lo è effettivamente. Radio 24 non è una radio che si occupa di dediche, e allora che cosa amandi? E di richieste musicali? Ah, né di dediche né di richieste musicali. Manca solo Bonini, manca solo che ti chiede di mettere Ghost. Ma vorrei chiedervi se è possibile fare un'eccezione e ricordare questo momento stupendo, l'inizio della nostra vita insieme, di quanto cammino abbiamo percorso e di quanto amore provo per lei. Non so, mi è venuta così. E allora, Paride, adesso tu ti alzi in piedi. Paride. No. Che tra l'altro ha anche scritto, Paride, se non hai il coraggio di alzarti in piedi sei un vigliacco. PS. Altro particolare, Laura è timida e mi ammazzerebbe se le venisse chiesto di parlare in pubblico. È chiaro che lei ha avuto una soffiata, che l'avrei letta, e non è venuta. Stiamo chiudendo. Prima di chiudere però io ho bisogno di ringraziare un po' di persone. che sono tutte le persone con le quali io faccio questo programma, e questo programma è fatto così perché ci sono loro, altrimenti non le farei, cioè no, altrimenti questo programma non sarebbe così. La prima fra loro è la persona che scrive il programma con me, che è Stefano D'Andrea. E poi c'è un'altra persona che scrive il programma quando può e quando glielo chiediamo, è Federico Bernocchi, che non è qui stasera e che avete visto e di cui avete sentito un racconto. Devo chiaramente ringraziare tutta Radio 24 che mi permette di fare questa roba che è totalmente fuori luogo per loro, però evidentemente continuano a farlo. E poi le altre persone con le quali facciamo questo programma, che sono nell'ordine l'unica donna della redazione, l'unica donna che si occupa di noi come se fosse una badante dalla mattina alla sera, ed è Margherita Ina. Brava. Che è del mio paese. Veniamo tutte e due dallo stesso paese, è incredibile, e non ci conoscevamo prima, ma chi se ne fotte. E poi c'è la persona, innanzitutto voglio ringraziare Claudio Rossi, che ha curato tutta la parte tecnica questa sera. E poi le due menti senza le quali questo programma non avrebbe questo suono e queste idee. Tiziano Bonini, che scrive il programma con noi, sceglie le musiche di questo programma. Forza, forza. L'abbiamo scelto per la sua flemma soprattutto. E poi il di fatto quello che cura la regia di quasi tutte le dirette, anche se si alterna con gli altri tecnici, ma che ha curato il montaggio video, audio di tutto questo live, ed è Paolo Corleoni. A questo punto, vai Paolino. Direttamente da Senigallia, per noi. A questo punto ci siamo, ok? Allora, cos'è che devo fare d'altro? Prendere... Ok, state lì un attimo. Ah no, giusto, il fotografo! Il fotografo è necessario per questo ultimo momento di svacco totale. State lì un attimo, state lì, state lì, state lì, state lì, state lì, state lì, state lì. E questa è veramente... la più grande sorpresa che potevate aspettarci, è quello che ci è costato di più alla radio, vero Luisa? Però l'abbiamo fatto, ci tenevamo proprio. Abbiamo detto o facciamo una goccia come quella o niente. Adesso vi chiederei l'ultimo sforzo e poi ci salutiamo tutti. Noi scendiamo, ci alziamo in piedi e al tre solleviamo la nostra goccia sopra la testa. Al grido, no, voi siete qui no, perché va bene imbarazzarsi però. Non fino a questo punto, ok? Giù, tutti giù, anche voi, voi giù, giù, giù, giù, giù, ci mettiamo qua, però dovete alzarvi in piedi, altrimenti... Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Che roba tamarra, incredibile! Lo facciamo tre volte, ok? Al tre, solleviamo la goccia sopra la testa. Uno, però vorrei starci nella foto, grazie. Uno, due, tre! Ancora, ancora, ancora, ancora! Niente, mi coprono, e vabbè, altronde. No, no, giù, giù, giù, giù, giù, giù, sembra di stare al supermercato. Al tre, uno, due, tre. Olè, adesso siamo alle giostre, l'ultima volta, no, no, no, no, l'ultima volta, tre volte, il numero perfetto. L'ultima volta e poi basta, poi andiamo a casa, ok? Uno, due, tre. Grazie, ciao a tutti, grazie mille. Arrivo, arrivo, arrivo.